a tutti e a tutte. Quadro generale fondamentalmente è quello che Malagrotta è chiusa a metà, nel senso che Malagrotta non è solo un buco dove buttano i rifiuti nella discarica, Malagrotta è un enorme complesso industriale di trattamento di rifiuti. Quello che è stato chiuso da ieri sera è semplicemente il conferimento del rifiuto non trattato, cioè il conferimento dei rifiuti in discarica. Rimangono aperte altre strutture, ad esempio le due linee attive di TMB, che è il trattamento meccanico biologico, fondamentalmente è in grande trita rifiuti, per capirci. Quindi il flusso dei camion rimane magari leggermente diminuito, ma rimane abbastanza cospicuo, perché sono i camion che portano i rifiuti a questo TMB e poi da quel TMB li devono riprendere e portare fuori da altre parti. Quindi anche l'effettiva vigilanza su che non ci sia nessuno sversamento è abbastanza complicata. Di fronte a questo, negli ultimi giorni la Valle Galeria sta vivendo un po' un'invasione da parte di qualunque politico possibile e immaginabile, certo, di qualunque istituzione possibile e immaginabile, che viene a cantare vittoria: abbiamo chiuso Malagrotta, abbiamo chiuso Malagrotta, abbiamo chiuso Malagrotta. Questo ovviamente non è vero, noi abbiamo prodotto un appello in questo senso anche insieme al comitato storico, che da 30 anni si batte per la chiusura di Malagrotta, ma proprio per il cambiamento del ciclo dei rifiuti in generale, perché non si bruci più niente, perché si ricicli tutto, perché in generale non si producono più profitti dai rifiuti, perché finché si produrranno profitti dai rifiuti ci sarà qualcuno che si ammalerà intorno alle fabbriche di morte, che sono gli impianti di vario trattamento dei rifiuti, qualunque essi siano. Questo appello ha avuto anche delle belle risposte, fondamentalmente si concentrava su due punti: da un lato spiegare che non era vero quello che ci stavano raccontando politici e giornali, che Malagrotta chiudeva perché non si può considerare chiusa qualcosa che ancora funziona per gran parte delle sue parti, e dall'altra si ribadiva la necessità di una lotta comune con tutti i comitati, perché non si chiuda un buco e se ne apra un altro, ma perché si imponga in qualche modo, non più richieda, ma imponga in qualche modo un cambiamento radicale nel sistema di gestione dei rifiuti, che elimini la produzione di energia dal rifiuto, il profitto dalla gestione dei rifiuti, e che vada verso una gestione a rifiuto zero. Senti, è giustamente sottolineato, insomma, che si tratta, Malagrotta non è un buco, ma è, insomma, un impianto industriale ad alta densità, e quindi è difficile pensare che si possa chiudere da un giorno all'altro girando una chiavetta. Esatto. Però ecco, per quanto riguarda, diciamo, i tempi di un processo che comunque certo breve non è, voi avete un'idea e soprattutto, diciamo, sono in campo anche mobilitazioni e iniziative per monitorare questo processo? In che maniera vi siete organizzati? Perché insomma non finisce. Allora, ieri alcuni cittadini hanno organizzato un'iniziativa alla sera, il famoso, ormai famoso Lucchetto Day davanti alla discarica, non tanto per festeggiare, anzi non per festeggiare, ma per richiedere una chiusura reale. Questa iniziativa ovviamente è stata anche là purtroppo un po' scippata da un'invasione di politici di vario tipo. Noi siamo andati anche là a sostenere la necessità di, oltre alla chiusura reale, di un collegamento con tutti gli altri comitati, e devo dire che è una sensibilità che fa abbastanza breccia e che quindi pone buone prospettive per il futuro di mobilitazione da quelle parti, nonostante tutta una serie di ovvie difficoltà rispetto anche solo alla grande propaganda che sta facendo sulla chiusura, che una chiusura non è. Delle iniziative di vigilanza si stanno organizzando, a parte appunto la difficoltà di capire se i camion sversano solo il TMB o no, ci sono tutta un'altra serie di specifiche tecniche che si stanno cercando di mettere sotto controllo. Attualmente diciamo lo stato dell'arte di Cerroni, che è il monopolista dei rifiuti nel Lazio, che gestisce da sempre Malagrotta, il suo piano ha vari fronti aperti. Da un lato sta trattando con le istituzioni prestazioni, un adeguamento della tariffa, quindi altri soldi che i cittadini dovranno pagare in più, i cittadini di tutta Roma, non solo quelli di Malagrotta, perché questo TMB che lui continua, cioè questi rifiuti che lui continua a trattare nel TMB, sarà comunque lui a doverli portare fuori da un'altra parte, non a Malagrotta, in qualche altra discarica di sua proprietà o in qualche altro luogo che lui individua, e questo verrà fatto con una maggiore spesa per i cittadini, ovviamente. Dall'altro sta trattando sempre con le istituzioni cosa fare con la quantità enorme di tonnellate di FOS, che è la frazione organica, i residui della frazione organica, diciamo, che lui ancora ha stoccato a Malagrotta e che con lui vorrebbe, che lui vorrebbe utilizzare per fare il cosiddetto camping, ovvero la copertura finale delle discariche esauste. Questo ovviamente è una follia, perché coprire una discarica con altri rifiuti è una follia, e quindi c'è tutto anche là una trattativa con le istituzioni su cui noi stiamo cercando di vigilare su come debba coprire queste montagne di rifiuti, che sono tra l'altro abbastanza instabili di per sé, un po' per loro natura, un po' perché Malagrotta è stata sovrautilizzata soprattutto negli ultimi 5 anni. Ecco, per quanto riguarda questo tema, diciamo, le richieste degli abitanti, dei coordinamenti, quali sono? Perché pure qui, insomma, chi magari non vive a Malagrotta viene investito dall'onda mediatica che parla appunto di boschi alpini che sorgeranno a Malagrotta. Ecco, insomma, pure qui, tempi e modalità, quali potrebbero essere? Diciamo, al netto di tutte le influenze istituzionali, le richieste sono appunto, oltre alla vigilanza su quello che ho appena detto, la reale chiusura di tutto il sistema industriale di trattamento dei rifiuti lì in Malagrotta, perché possono fare tutti i boschi che gli pare, a parte che là muoiono gli alberi, cioè, se piantano gli alberi là, ci hanno già provato, muoiono, perché l'albero non lo può piantare sui rifiuti, però anche se c'è il parco più bello del mondo, sarebbe un parco che sta tra due linee di MB, un incinitore ospedaliero, un inceneritore che potrebbe riaprire da un momento all'altro, e in più alcune autorizzazioni per costruire un'ipotetica altra discarica là non sono ancora state ritirate. Tutti promettono che ritireranno, ma ancora non sono state ritirate, e quindi fondamentalmente quello che chiedono i comitati è la chiusura di tutto il sistema industriale, ma lo chiedono in un'ottica non di aprire un altro buco e un altro sistema industriale da un'altra parte, ma di superare proprio quel modello di gestione dei rifiuti. E questo forse è il dato politico più importante, insomma, che si è andati un po' al di là del NIMBY, come dicono alcuni. Sì, con alcune resistenze dovute soprattutto appunto all'ingerenza ormai della politica istituzionale, che mantengono livelli di NIMBY da quelle parti, però diciamo i comitati sono da anni fermi su una posizione assolutamente non NIMBY invece.